Siamo al telefono con Andrea Piccoli Bigfoot, Andrea dei Piccoli Bigfoot e anche Andrea Piccoli Bigfoot, perché è un po' un progetto che parte da lui. Ciao Andrea, come stai intanto? Ciao, ciao Radio Città Fucico, tutto bene, dai? E niente, siamo in pausa. Allora, pausa lavorativa. Ecco, giustamente, perché la musica purtroppo non basta da sola, diciamolo. Dai. Non, purtroppo, no. Sarebbe bello, eh? I 100.000 euro che guadagniamo a concerto li spendiamo in 3 giorni e quindi non abbiamo soldi per campare. Sì. Allora, Le origini è il secondo album dei Piccoli Bigfoot, uscito a gennaio 2025. È un progetto che nasce un po' dal punk e si sposta verso il folk. Come lo racconteresti tu questo progetto? Allora, il progetto nasce nel 2019 come progetto solista, in cui io suonavo chitarra acustica e voce. E negli anni poi ci sono aggregati altri Bigfoot, perché cioè, praticamente noi siamo mascherati con una maschera pelosa, e quindi sono aggregati vari altri musicisti, e il genere è la chitarra acustica, è rimasta, e quindi il punk è nelle nostre corde, nelle nostre vene, quindi abbiamo fatto questo mix di folk e punk e anche qualche canzone un po' più cantautorale, tranquillina. È un po' un mare, sono onde, no? Sono canzoni che possono, sono un po' travolgenti come ritmo e altre un po' più tranquilline da ascoltare con un bicchiere di vino guardando la pioggia. Beh, molto interessante. Non so se come descrizione. Spiegato. Secondo me è chiarissimo. Ma come mai i Piccoli Bigfoot e la scelta delle maschere? È una cosa nata così o c'è magari un'idea dietro? Allora, la maschera è un po' un modo per rappresentare, un po' come tornare primitivi, no? Perché è sempre rappresentato un po' sia nella storia, nelle religioni, ha sempre rappresentato un modo di comunicare con i defunti, e anche il nostro, cioè noi lo utilizziamo per un po' tornare primitivi, sentirsi un po' più, trasformarsi in uomini di Neanderthal, ecco. Voi nascete comunque da altri progetti, quindi potrebbe essere anche un ritorno un po' a quello che c'era prima. Che progetti sono intanto quelli da cui arrivi tu e arrivano anche gli altri membri dei Piccoli Bigfoot? Allora, io arrivo da vari progetti punk rock, in cui suonavo il basso e ero l'autore delle canzoni. E gli altri, anche loro da svariate band, il sassofonista, ha suonato un po' dappertutto, lui ha sempre fatto jam session di qua e di là, ovunque. E mentre il bassista e il batterista Paolino Bigfoot e Barbessio Bigfoot suonavano con me in un altro progetto prima ancora di fondare i Bigfoot. Ok, come è nata l'idea di unirvi tutti insieme in questo progetto? Niente, allora io, come ti dicevo, ho iniziato un progetto da solo e da solo un po'. È bello, ma c'è sempre bisogno di fare gruppo, cioè di essere un noi. È anche aperto a, cioè, nel senso, delle volte si unisce anche un altro chitarrista, Gregorio Bigfoot, che sono tutti nomignolo Bigfoot quando entrano nella band, che ci dà con la chitarra elettrica, ci dà dei colorini. Comunque per fare uno show, la band nasce per creare uno show un po' più completo, un po' di impatto anche. Ecco, a proposito di gruppo, nei credit dell'album siete in 800, adesso che non li ho letti tutti, ma ci sono un sacco di nomi e immagino che nei live non ci siano tutti, però chi sono tutte queste persone che hanno partecipato all'album e in che modo magari anche? Allora, all'album ovviamente non possono starci tutti su un palco, hanno partecipato tanti amici a fare i cori nelle canzoni un po' più punk, diciamo, a fare dei bei cori sostanziosi, e invece un'altra canzone l'abbiamo scritta e registrata in tre, quindi abbiamo fatto un featuring Jim Mannett e Mike Orange, la canzone si intitola Bolle, e in questa canzone ci ha dato una mano a creare dei colori, a suonare il dobro, vari colori in Ricky Anelli, comunque ci sono un bel po' di collaborazioni all'interno dell'album, ecco. Poi vabbè, c'è quello che ha prodotto le canzoni, anche lui ha messo i vari colorini, che è il Gregorio Bigfoot, che in qualche data ci accompagna anche lui con la chitarra elettrica. Eh sì, sono tante persone, sì. Ecco, dal vivo siamo un po' più... c'è sicuramente meno roba per forza rispetto al disco, ma tentiamo di avvicinarci il più possibile. Ecco, arriviamo alle origini, appunto, che è il vostro secondo album. Di cosa parlano le canzoni? Ci sono alcune canzoni in tema un po' natalizio, altre in tema un po' vita da bar, vin brulé, un po' più alcoliche magari, ma in generale quali sono i temi delle canzoni delle origini? In generale io lo vedo un po' come rappresenta un po' la maschera, ecco, un po' un ritorno alle origini, perché all'interno ci sono canzoni scritte a inizio anni 10, cioè 15 anni fa, e canzoni scritte l'anno scorso, cioè è proprio un mix. Sono due canzoni che ovviamente parlano di storie del passato, storie del presente, storie del futuro. Sono un po' un cerchio, l'origine lo vedo un po' come un cerchio che si chiude, perché come dicevo all'inizio ero da solo, avevo solo un pugno di canzoni all'inizio del progetto, e quindi ho dovuto attingere da qualche pezzo dal passato, dei vecchi progetti. Poi con gli anni questi pezzi sono rimasti proprio anche nei concerti, e quindi mi sembrava giusto dare una nuova vita a questi pezzi, che sono quattro, quelli proprio vecchi vecchi, e invece gli altri 4, 6, 7, 8 sono tutti nuovi 8, quindi sono 12 canzoni, 11 online, 12 sul disco fisico. Okay, quindi prendete il disco fisico. Esatto. E poi ci sono un sacco di richiami a questa figura geometrica del cerchio che si chiude, cioè sono le palle di Natale, i palloni sgonfiati, le bolle. Una nuova canzone parla della rotondità della pancia di una donna, che c'è la strada per diventare un cambiamento epocale della vita di una persona e di una coppia. E come dicevi te, sono canzoni un po' più alcoliche, anche lì la rotondità della pancia alcolica viene un po' richiamata in vita da bar e così. Quindi è un cerchio, come la forma del CD, ecco, lo vedo un po' così. Perfetto. Il cerchio, le origini, la luna, anche la luna è rotonda, è così. Quindi diciamo che il fil rouge dell'album è il cerchio, che sì, tutto questo, collega sì. E in qualche ho modo chiuso tutto il cerchio, ho iniziato nel 2019, l'abbiamo chiuso e adesso ne apriamo altri, dai. Ecco, perfetto, questa era la prossima domanda. Canzino. C'è qualcosa anche dopo o è una chiusura che si ferma, no? No, sto già scrivendo un po' di pezzettini nuovi e piano piano, tra due anni, sarà un nuovo disco, dai. E questo nuovo disco, allora, voi siete bergamaschi, quindi miei conterranei, come si sente anche dall'accento. Si sente tanto, né? Ma va benissimo così, a me piace. Va bene, io l'ho certo. Perso e questa cosa mi dispiace. Avete delle date in programma? E se sì, dove? Uscite anche dalla bergamasca o è più local per il momento? Allora, abbiamo tre date intanto. Abbiamo la presentazione a Link Club di Bergamo il 22 di febbraio, insieme al Jim Mannetz e al Dani, il Danno dei Pornoriviste, che anche qua la release party delle origini con il Danno delle Pornoriviste, che Pornoriviste fanno parte un po' del nostro bagaglio musicale adolescenziale. Poi sì, usciamo dalla regione il 22 marzo, in duo però, facciamo chitarra acustica sax, in un negozio di dischi a Vicenza, si chiama Film Musica. Poi suoniamo ancora in duo ad aprile, sax e chitarra acustica, alla festa della stalla domestica a Malegno in Val Camonica, in provincia di Brescia. Perfetto. E intanto queste, quindi io bene. Comunque siamo alla ricerca di date, se qualcuno che ci ascolta ci vuole contattare, ci scriva tranquillamente sulla nostra pagina, che noi rispondiamo e veniamo a suonare volentierissimo. Fantastico, quindi lanciamo questo appello, piccoli Bigfoot, esatto. Che ma chissà, magari anche dalle nostre parti salta fuori qualcosa. Perfetto. Sarebbe bello Bologna. Grazie mille Andrea, grazie mille piccoli Bigfoot. Ti chiedo se per salutarci vuoi scegliere una canzone dell'album, Le Origini, da far ascoltare a chi ci ascolta da casa. Certo, grazie mille a te Mauro. Io direi allora, oggi martedì potrebbe andare bene Psicosi Materiale. Psicosi Materiale dei piccoli Bigfoot, grazie mille Andrea e incrociamo le dita per un concerto futuro qua in zona. Speriamo, guarda, Bologna non ho mai suonato, è un peccato perché Bologna è una delle mie città preferite, avrei voluto viverci. Cioè, nella bonus track che è sul disco, c'è una frase che dico che avrei voluto studiare a Bologna. Ah, quindi, avrei voluto studiare a Bologna. Quindi non lo fai solo perché stiamo facendo un'intervista a Bologna, ma è vera questa cosa. Certo, sì, sì, sì. Dai, grazie mille Mauro. Grazie mille Andrea. A presto. Ciao. Grazie, ciao.